sei mesi che mio padre morì. Sola ricchezza mia per la madre, per i fratelli alla divane. Verità paterna. Bandite da strada, l'accettai, era quello il mio destino, ma un giorno poi incontrata, ho sognato d'andarmene con voi, tanto lontano, per redimermi tutto in una vita.